9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 6 dicembre. Oggi una giornata dedicata a un incontro con un solo ospite, un ospite importante per la responsabilità che ricopre nel governo e la responsabilità dell'ordine pubblico e della sicurezza, è il ministro dell'interno Roberto Maroni, e noi ne siamo grati perché trova il tempo e il modo di rispondere alle nostre domande e di spiegare a tutti i nostri ascoltatori a che punto siamo con l'intensificazione e anche l'ottenimento di risultati concreti nella lotta alle grandi reti di criminalità organizzata e alle mafie di tutti i tipi, nell'impegno per garantire più ordine e sicurezza nelle nostre città, nell'impegno per limitare l'immigrazione clandestina. Ci sono, come al solito, purtroppo anche oggi sui quotidiani, due grandi fatti che hanno un impatto evidente, anche emotivo, ma insomma di cronaca nella coscienza e nell'impressione degli italiani, perché sia la vicenda del fermo operato ad un marocchino per il sospettato omicidio di Iara a Brembate di Sopra, sia la vicenda dell'extracomunitario senza patente drogato in Calabria, che ha determinato la strage di ciclisti, sono ovviamente due fatti che, come tanti fatti di cronaca, ci interrogano su questo. In ogni caso, iniziamo la giornata salutando e ringraziando il ministro Maroni. Buongiorno a lei. Buongiorno, buongiorno. Allora, la cosa migliore, noi ce lo diamo sempre come metodo, è quello di ricordare qualche dato, per così dire. E allora, sia sul fronte dell'impegno delle forze dell'ordine, della magistratura, di tutto il complesso delle forze che sono impegnate istituzionalmente sotto il coordinamento del ministro nell'assicurare alla legge i grandi ricercati, sia dal punto di vista dei beni sequestrati e confiscati alla mafia, sia dal punto di vista insomma dei reati commessi e dei clandestini, facciamo qualche numero. Allora, ricordo a tutti, sono tutti numeri che trovate con molta più ampiezza di particolari sul portale del Ministero dell'Interno. Della lista dei 30 maggiori ricercati per pericolosità, condanne e anni di carcere che li aspettano dalla formazione del governo, 28 sono stati assicurati alla giustizia, alle indagini o alle patrie galere, a seconda del livello a cui stanno i loro procedimenti. Ne mancano due dei grandi nomi, sono Michele Zagaria e Matteo Messina Denaro. Quanto a beni confiscati e sequestrati, siamo in termini di terreni, immobili, aziende, siamo a valori superiori ai 35 miliardi, sbaglio, ministro? No, sono 18 miliardi, 35 mila beni. Ah, sono 35 beni, 18 mila, ha ragione il ministro, ovviamente. E vedremo poi più avanti, perché adesso cominciamo con questo, con questo fronte della grande criminalità, andremo poi al numero di delitti compiuti e agli immigrati. Il bilancio complessivo dei pacchetti sicurezza, da questo punto di vista, dei voti in Parlamento anche avvenuti recentemente quest'estate pressoché all'unanimità, gli impegni nuovi, le deleghe che ci sono per il codice unico antimafia, per la tracciabilità degli appalti, ecco, tutto questo disegna un orizzonte di cui obiettivamente molti le rendono merito, signor Ministro, ma che cos'altro pensa che si possa dire e fare sul versante della lotta alle grandi criminalità? Questo fronte dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto, attuando completamente tutte le innovazioni legislative, che sono tante, che sono state introdotte. Questi risultati non si ottengono così per caso. C'è un aumento nei beni confiscati, sequestrati e confiscati, c'è un aumento del 500% rispetto ai 2 anni e mezzo precedenti. C'è un aumento nel numero dei mafiosi arrestati, ne sono stati arrestati 6 al giorno in media dall'inizio del governo, e i 28 latitanti nell'elenco dei 30, ne mancano solo 2, sono tutti risultati che non hanno precedenti, di cui io sono molto orgoglioso e che dicono quanto l'impegno dello Stato, forze dell'ordine, magistratura, governo e Parlamento in questi 2 anni e mezzo contro la mafia sia stato elevato. Davvero non c'è un'altra stagione con risultati migliori di questa, quindi vuol dire che le misure che abbiamo adottato sono efficaci, stanno funzionando, dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Abbiamo introdotto, come lei diceva, quest'estate una importante novità legislativa approvata per la prima volta all'unanimità sia dalla Camera che dal Senato, un piano straordinario contro la criminalità organizzata, dove c'è una delle misure più importanti, quella a cui lei faceva cenno sugli appalti pubblici, cioè la tracciabilità dei flussi finanziari degli appalti pubblici. Ogni appalto pubblico, piccolo o grande che sia, ogni euro di soldi pubblici pagati per un appalto sarà tracciato, sarà riconoscibile non solo nel primo passaggio dalla stazione appaltante all'appaltatore, ma anche nei subappalti, proprio per evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata. Questa attenzione particolare ai patrimoni l'abbiamo sviluppata in questi 2 anni e mezzo e ha portato a questi risultati veramente significativi: l'aggressione ai patrimoni, 18.000 beni sottratti alla criminalità, case, immobili, terreni, aziende per un controvalore di 35 miliardi, per un controvalore di 18 miliardi, anche qui senza precedenti. Ma non solo questo, siamo riusciti ad andare fino in fondo a non solo sottrarre i beni, ma anche destinarli alla collettività, alla comunità delle persone oneste, come la chiamo io. E per questo abbiamo istituito un'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, che gestisce tutto questo immenso patrimonio in tutte le regioni, dando quindi una destinazione rapida ed efficace a questi beni, perché non basta portarli via se poi si lasciano lì a deperire, bisogna riempirli di legalità, farli entrare nel circuito della legalità, darli ai comuni perché ci facciano dei centri, perché ci facciano li diano al mondo dell'associazionismo, del volontariato, ci facciano tutto quello che serve per dimostrare che la società civile si riappropria dei beni frutto dell'attività criminosa. Questo dobbiamo continuare a fare. E anche un'altra cosa, abbiamo notato questo, che la pressione che stiamo mettendo sulla criminalità organizzata, soprattutto sull'aspetto patrimoniale, sta inducendo la criminalità stessa a guardare altrove per gli investimenti, non più solo in Italia, ma anche in paesi che sono meno aggressivi nei loro confronti, paesi europei. Quindi l'allarme che io ho sollevato a livello europeo è: attenzione, quello che stiamo facendo in Italia rischia di portare gli investimenti della criminalità organizzata in paesi dove l'attenzione è più bassa. E quindi ho chiesto, e stiamo discutendo a livello europeo, che il modello italiano, la normativa italiana, il sistema italiano di contrasto alle mafie diventi modello europeo, sia adottato come normativa europea in tutti i paesi europei. Ne ho parlato anche l'altro giorno con il collega Nurgaliev e il collega russo, perché anche loro sono molto interessati al sistema italiano, al modello italiano. Questo credo che sia lo sforzo che noi dobbiamo compiere nei prossimi anni. Lei è convinto che, poi ci avviciniamo naturalmente al tema che toccheremo per forza dopo le recenti polemiche che ci sono state, cioè il Nord, in materia di poteri dei sindaci in questioni che non riguardano solo la sicurezza delle città in ordine al minuto ordine pubblico, all'immigrato, alla pura legalità, ma nei contrasto contro la grande criminalità nelle aree di insediamento storico e soprattutto in quelle in cui poi è avvenuta l'emigrazione delle grandi reti per i grandi fenomeni economici che nella vita italiana negli ultimi 20-30 anni sono avvenuti, e quindi ovviamente le grandi mafie vanno laddove e poi il denaro corre. Per i poteri locali, che cosa si può immaginare dal punto di vista del perfezionamento delle norme già esistenti e della loro attuazione concreta, o anche alla luce dell'esperienza di questi ulteriori 2 anni che si è fatto, quali nuove possibilità ci sono di immaginare, pur tra i tanti compiti che hanno, ma quelli di coinvolgerli di più in questa lotta contro le grandi reti? I sindaci hanno un ruolo fondamentale nella sicurezza urbana, naturalmente, poi eventualmente ne parleremo, e stanno facendo molto bene con il sistema delle ordinanze. Sulle infiltrazioni della grande criminalità organizzata non hanno ovviamente la possibilità di fare investigazioni o cose del genere, devono stare attenti naturalmente, però il terreno più insidioso è appunto quello degli appalti pubblici, dove la criminalità può infiltrarsi, ma non perché va e corrompe qualcuno dell'amministrazione, ma semplicemente perché vince la gara, oppure vince la gara una società che apparentemente non ha problemi e poi la dà in subappalto a tutti gli altri. Col sistema della tracciabilità noi mettiamo in sicurezza proprio tutta la filiera. Il primo appalto, chi gestisce e vince l'appalto, lì ci può essere il rischio, e noi proprio nel piano straordinario antimafia abbiamo messo a disposizione dei sindaci un meccanismo che consente loro di evitare questo, cioè la stazione unica appaltante. È una procedura che viene messa in capo o alle prefetture o alle province, a cui i sindaci possono rivolgersi delegando loro la gestione proprio dell'appalto, e cioè tutta la gara. Il sindaco decide che cosa fare, che cosa serve nel suo comune, trova i soldi eccetera eccetera, ma tutta la procedura di gara, quella più insidiosa, quella dove i contatti possono determinare la scelta di uno piuttosto che un altro, tutta la procedura può essere gestita da un terzo rispetto al sindaco, rispetto al comune. È una struttura che già opera in 3 o 4 province nel sud, quelle dove è iniziata anni fa, a più alto rischio di infiltrazione, e sta funzionando bene. Ecco, questi strumenti possono essere utilizzati oggi da tutti i sindaci che lo vogliano fare, che non abbiano la struttura adeguata per fare i controlli fino in fondo. E poi la seconda cosa che fanno, che possono fare i sindaci, come dicevo prima, è sul fronte dei beni sequestrati e confiscati, utilizzare, accettare questi beni che vengono dati gratuitamente dall'Agenzia Nazionale e trasformarli, facendo degli investimenti, in strutture attive per la comunità locale, a dimostrazione proprio che lo Stato in tutte le sue articolazioni va fino in fondo, sottrae il bene, e questo lo fa polizia, carabinieri, magistratura, e lo utilizza, e qui è il ruolo fondamentale degli enti locali. Io tra l'altro ricordo a questo proposito che anche le imprese hanno una responsabilità in questo, perché molto spesso nel caso di imprese confiscate, controllate appunto dalle grandi reti criminali che venivano poi sequestrate o confiscate, si poneva inevitabilmente un problema nel regime del sequestro per la continuità aziendale. Moltissime volte queste imprese andavano a interruzione di continuità con perdita di posti di lavoro, di nuovo accumulato, e invece negli ultimi 2 anni abbiamo fatto passi avanti anche su quello. Ci sono anche i programmi di formazione di fondi impresa che vedono sindacati e Confindustria accomunati nella gestione dello 0,3% dovuto per legge, che con la collaborazione del Ministro dell'Interno e del Lavoro si sono focalizzati proprio per dare continuità, innanzitutto a prescindere da poi chi eventualmente subentrerà o chi verrà assegnata all'azienda stessa, con programmi di formazione dei dipendenti. Questa è un'altra maniera per impedire poi che le imprese decadano, perché quello che va sequestrato è naturalmente, necessariamente, deve tentare di essere non solo preservato ma valorizzato ai fini collettivi, e in questo anche le imprese con i loro protocolli di legalità in questi 2 anni hanno tentato di fare la loro parte. Signor Ministro, è ovvio che io glielo debba chiedere, recentemente agli occhi di milioni di italiani sono uscite le polemiche del Saviano, veniva con me, lei è andato e ha recitato la sua lista, adesso sui giornali inizia a librarsi una nuova polemica perché c'è un libro fatto da 2 giornalisti di Libero, da Gianluigi Nuzzi e Claudio Antonelli, si chiama Metastasi, al quale il vice ministro Castelli ha reagito un po' arrabbiandosi, dicendo ma questi 2 giornalisti cosa pensano, facendo parlare il pentito di Bella, di 'Ndrangheta, che io non capisca che stanno alludendo a me in una delle interlocuzioni politiche cifrate. Perché, signor Ministro, la sua impressione è che stia diventando così diffuso il puntare il dito 'Ndrangheta, Lega in Lombardia e nel Nord? Qual è il punto? Colpire lei perché c'è la responsabilità, e la sua forza politica perché c'è la responsabilità al Ministero, oppure tentare di avvalorare l'idea che improvvisamente nel Nord c'è una specie di deserto politico tranne la Lega, gli altri non ci sono più, oppure per quale ragione? No, perché è un po' singolare, nel senso che per chi fa il nostro mestiere dovrebbe sapere che sono più di 30 anni che purtroppo le cronache degli insediamenti della 'Ndrangheta, prima della mafia ma poi soprattutto della 'Ndrangheta, sono, ahimè, il pane quotidiano di inchieste, di magistrati, di arresti delle forze forze di polizia, e quindi qual è il punto nuovo per cui improvvisamente questo diventa il grande motivo di fondo, secondo lei? Ma guardi, accostare la 'ndrangheta alla mafia, alla Lega, è una colossale sciocchezza, evidentemente. Noi abbiamo una storia tale da, che sta lì a dimostrare che la Lega è nata contro queste situazioni, contro la criminalità, contro queste bande mafiose. Noi abbiamo denunciato per primi, già negli anni Ottanta, il soggiorno obbligato come lo strumento che purtroppo aveva consentito l'infiltrazione al nord della criminalità. Il fatto che la 'ndrangheta, la mafia, sia la Camorra, che siano presenti in Lombardia non è una novità, lo sappiamo da tempo. All'inizio degli anni 90 ci sono stati i primi grandi processi contro la 'ndrangheta al nord, in Lombardia, e quindi questo è un dato di fatto. Ma dire che appunto la 'ndrangheta interloquisce con la Lega, che è disposta a, è una colossale sciocchezza. Detto questo, che viene ogni tanto tirata fuori adesso da questo libro qui, mi pare che dica anche altre gravi sciocchezze, sono già state annunciate naturalmente azioni legali, giustamente, da parte non solo di Roberto Castelli ma anche di altri importanti personaggi, quindi mi pare veramente una colossale sciocchezza. Perché si dicono queste colossali sciocchezze contro la Lega? Lo stesso motivo per cui negli anni 90 si continua ancora adesso a dire che la Lega è razzista, che la Lega è fatta di persone senza cultura, fatta di persone che si tingono la barba e i capelli di verde, che mettono le corna, tutto questo armamentario di luoghi comuni che dimostra quanto poco si capisca e si conosca davvero della Lega. Io ho invitato queste persone, queste che dicono queste colossali sciocchezze, a stare qualche giorno, una settimana, in un paese, uno qualsiasi dei 400 comuni amministrati dalla Lega, stare con il sindaco leghista, girare un po', vedere quello che fa, come lavora, come si muove. E allora sono convinto che tutti questi pregiudizi cadrebbero e queste persone si renderebbero conto che la Lega è fatta di tanti, tantissimi uomini e donne che sono persone oneste, persone capaci, che sottraggono tempo alla famiglia, agli amici per fare gli amministratori, una sorta di volontariato, no? di azione civile che svolgono con un unico scopo, quello di rendere migliore la vita dei propri cittadini senza guadagnare nulla. Questa è la realtà del nostro movimento e certamente la crescita impetuosa che ancora oggi stiamo registrando non sarà fermata da queste sciocchezze. Allora, lo dico per gli radioascoltatori che stanno mandando gli sms dicendo: Giannino, non fare propaganda al governo. Guardate, cari ascoltatori che la pensate così, io sono come sempre tagliente e sincero. Se pensate che per non fare propaganda al governo io debba omologarmi a chi dice che la Lega è diventata l'interlocutore numero uno della 'ndrangheta, mi dispiace, io vi deludo, perché per la mia esperienza, non perché io sia leghista, per la mia esperienza penso che sia sbagliato dirlo. Penso che sia, come dimostrano tutte le indagini di cui abbiamo parlato, Cerberus, Parco Sud, Crimine Infinito, tutte le grandi operazioni di questi ultimi mesi, penso che bisogna che innanzitutto le imprese, le camere di commercio, tutte le forze della società civile, abbiamo visto quanta profonda è in Lombardia, non solo in Lombardia, la possibilità di contagio, vista la ricchezza che c'è qua, che si debba dire che improvvisamente il tramite, la mafia connection, la 'ndrangheta connection, sia leghisti. Se vi aspettate che ve lo dico, non ve lo dico, e se vi aspettate che sia propaganda per il governo, rivolgetevi altrove, perché un conto è fare seriamente il proprio mestiere, altro conto è quindi riferire della preoccupazione perché troppe imprese rischiano a corto di soldi di finire in chi ha molti soldi, cioè la grande criminalità. Il problema dell'uscita, per esempio, che c'è tra 4 settimane dalla moratoria bancaria è sicuramente questo, tanto per dirne una, che aggiunge c'è altra pressione sulle forze dell'ordine. Però io penso invece che dire che la Lega sia la questione sia propaganda, lo dico io, e quindi pari e patta. Detto questo, ora ci prendiamo la pubblicità e poi andiamo a un fronte ancora a sud in Calabria, per poi spostarci sull'immigrazione clandestina e la sicurezza nelle città. Pubblicità. Eccoci tornati in studio con il ministro interno Roberto Maroni. Domanda secca, come mai quando il presidente di Impregilo, che tra l'altro è anche presidente della Banca Popolare di Milano, Ponzellini, fa per così dire l'aggiornamento bimensile del numero di attentati sui cantieri della Salerno-Reggio Calabria, che è una frontiera, da una parte dell'impossibilità di realizzare opere pubbliche nei tempi stabiliti in Italia, dall'altra, come evidente, ha attirato negli anni, proprio per il problema delle stazioni appaltanti e subappaltanti, un coacervo di interessi per cui chiunque abbia un'impresa che ha preso lì la stazione appaltante dice dopo un po' io non ce la faccio, perché tanto qua nel dare poi subappalti o si fa lavorare chi si fa lavorare oppure ti incendiano i mezzi, eccetera eccetera. Come si fa per un ministro che ha questa croce in mano a pensare di risolvere questa storia di cui il presidente in pregio ogni due mesi si riduce a fare il bollettino degli attentati che ci sono nei cantieri? Questa è una situazione molto particolare, questa della Salerno-Reggio Calabria, in particolare il tratto che c'è in Calabria. La Calabria è una regione straordinaria, io ci sono stato spesso negli ultimi tempi per la mia attività istituzionale, ho incontrato i magistrati che sono stati oggetto di intimidazioni. È una regione straordinaria, ma è una regione molto complicata e difficile da questo punto di vista, perché lì c'è la testa pensante dell''Ndrangheta, e l''Ndrangheta rispetto alla mafia, rispetto alla camorra, è un'associazione criminosa particolare che si basa su strutture familistiche, lendrine, dove ci sono pochissimi pentiti, difficile da penetrare, difficile da aggredire lì sul posto. Pensi che ci sono dei comuni, parlavo con gli investigatori, dove il 50-60% di coloro che abita in qualche modo fa parte, collegato a questi giri, quindi è quasi una questione sociale, non criminale, no? Questa è almeno la percezione, quindi lì è particolarmente complicato intervenire. Ci siamo concentrati anche su questo, il ministro Matteoli è andato anche lui più volte, abbiamo sviluppato delle normative che ci consentono dei controlli molto accurati nei cantieri, per esempio, compresi quelli della costruzione della Salerno-Reggio Calabria, ci sono dei documenti, il DURC, documento di regolarità contabile, amministrativa e previdenziale che ogni cantiere deve avere per dimostrare che tutti i lavoratori sono in regola, naturalmente. Questo non basta perché un'azienda, una società mafiosa del giro può anche tenere in regola i propri dipendenti, non necessariamente li tiene non in regola, e per questo abbiamo proprio lì creato a Reggio Calabria la stazione unica appaltante, con i controlli che la prefettura fa su tutte le aziende che partecipano al circuito, al giro degli appalti pubblici. E anche per questo io credo che ci sono questi attentati, proprio perché le aziende legate al giro della mafia sono lasciate fuori, si riesce a filtrare e la loro reazione è questa. Ecco, è una vera e propria guerra contro la criminalità organizzata, che reagisce in modo anche violento. Noi dobbiamo continuare, io credo che l'unico modo è questo, far capire loro che bomba o non bomba, come cantava Venditti, noi non ci fermeremo, andremo fino in fondo. Siamo in un momento particolarmente felice nel contrasto alla criminalità e siamo in una fase in cui davvero possiamo dare un colpo mortale. Non bisogna temere la reazione, bisogna prepararsi, cosa che abbiamo fatto, che stiamo facendo, e bisogna continuare in questa direzione. È complicato e difficile, ma abbandonare, arrendersi, alzare le braccia, alzare le mani sarebbe la cosa peggiore da fare. Senta, i magistrati in questi due anni sono dei punti delicati dell'azione di riforma posta, tentata almeno dal governo, cioè la riforma delle intercettazioni, e così via. Hanno sempre sostenuto che tutti questi passi in avanti non sarebbero stati possibili in un regime più restrittivo di intercettazioni telefoniche. Su questo lei come la pensa? Ma Ma le intercettazioni sono uno strumento utile, ma non l'unico strumento, naturalmente. Ci sono tanti altri strumenti che vengono utilizzati dalla magistratura, dalle forze dell'ordine, per catturare i latitanti, per scompaginare le fila della criminalità organizzata, per aggredire i beni. È un pacchetto, una serie di misure, il 41 bis per esempio, no? Che abbiamo messo in campo col primo pacchetto sicurezza, col codice straordinario contro le mafie, col secondo pacchetto sicurezza approvato dal governo pochi giorni fa, è questo pacchetto di misure che consente i successi che stiamo ottenendo, perché vede, qualsiasi nuova azione comporta una reazione a difesa da parte della criminalità e le nostre azioni vanno continuamente aggiornate. Ci sono oggi c'è la possibilità tecnologica di telefonare senza essere intercettati, no? Attraverso Skype, per esempio, che ha un sistema tale che consente di telefonare e rende impossibile le intercettazioni. Allora, se tutta la nostra azione fosse basata sulle intercettazioni, c'è la possibilità oggi di telefonare senza, di comunicare senza essere intercettati? Sì, e non avremmo ottenuto i risultati che abbiamo ottenuto. Detto questo, sulle intercettazioni, io la posizione che noi abbiamo tenuto è, io sono convinto di questo, che si debbano continuare a usare sul piano tecnico, bisogna però riuscire ad evitare che l'intercettazione della telefonata che io in questo momento sto facendo con lei, per esempio, l'eventuale intercettazione naturalmente, non finisca poi su tutte le prime pagine dei giornali, perché non c'entra niente, serve solo a fare gossip e non serve alle indagini, non serve alle attività investigative. Purtroppo questa distinzione non è mai facile, perché quando si fa un'intercettazione poi c'è sempre qualcuno che riesce ad avere il testo dell'intercettazione e pubblicarla. Non ha rilevanza penale, non importa, anzi forse meglio. Però purtroppo in molti casi ha rovinato la vita delle persone, quindi l'intercettazione è uno strumento utile, bisogna regolarlo e la regolazione è difficile, da qui il fatto che finora non è stato fatto, per impedire i danni collaterali, per impedire che servano solo a creare problemi alle persone oneste che non c'entrano niente, che parlano al telefono invece che solo alle attività investigative. Ora, i casi che ci sono oggi sulle prime pagine, il caso di Chiara, il fermo del marocchino che nega l'omicidio della ragazza di Brembate, gli investigatori aggiungono ci sarebbero anche due complici italiani, il caso poi dell'extracomunitario marocchino, anche lui drogato e senza patente, che travolge un gruppo di ciclisti con 7 vittime in Calabria. Sono casi che ripropongono con durezza, con delitti di grandissimo impatto emotivo, sia il fenomeno della immigrazione clandestina, sia il numero di reati sul totale di delitti compiuti dagli stranieri in Italia, e da una parte chiamano in causa i numeri quelli ufficiali, che testimoniano l'aumento delle espulsioni e la diminuzione degli sbarchi clandestini, dall'altra poi al contempo, oltre a queste critiche, ce ne sono altre, perché naturalmente di fronte poi alle reazioni dell'opinione pubblica a Brembate e così via sui giornali si affianca un secondo dibattito, che è quello dell'eccesso di reazione, del razzismo latente, per così dire, di fronte a questi episodi. Per il Ministro dell'Interno queste due critiche che risposte hanno? Ma del caso di Brembate non parlo naturalmente, perché ci sono investigazioni in corso e sarebbe opportuno che si lasciassero lavorare gli investigatori per evitare di farne un altro caso mediatico come quello di Vetrana. Sull'altro episodio, ricordo che questo signore che sotto l'effetto di droga ha ammazzato 7, ha fatto questa strage, era un cittadino extracomunitario regolare, non clandestino, non era un clandestino. E noi ci siamo concentrati in questi 2 anni sul contrasto all'immigrazione clandestina, non abbiamo fermato l'immigrazione di persone che vengono a lavorare, ci mancherebbe altro. Bisogna distinguere, l'immigrazione clandestina va fermata, va contrastata con ogni mezzo lecito naturalmente, l'immigrazione legale invece va favorita perché è legata, secondo la legge Bossi-Fini, a un regolare contratto di lavoro, Poi ovviamente se uno viene regolarmente, prende un lavoro e dopodiché improvvisamente si droga e fa quello che fa, deve subire le conseguenze andando in galera naturalmente, ma non c'entra con l'immigrazione clandestina. Il fatto di questo tizio che ha ammazzato i 7 ciclisti, lo ripeto, era un cittadino regolare. Sul fronte dell'immigrazione clandestina ci siamo concentrati sugli sbarchi, come lei ha detto, facendo questo accordo con la Libia che ha funzionato e che funziona benissimo e che impedisce a questi di partire, salvando anche molte vite umane. I dati sono lì a dimostrare che l'accordo funziona. Nell'anno precedente l'accordo sono sbarcati a Lampedusa circa 32.000 clandestini, nell'anno successivo ne sono arrivati meno di 400 in un anno intero. Questi sono i risultati che noi possiamo portare. Fermare l'immigrazione clandestina non vuol dire risolvere tutti i problemi, per l'amor di Dio, ma vuol dire eliminare una serie di situazioni di persone che arrivano senza lavoro, senza punti di riferimento, che poi fatalmente finiscono nel circuito della criminalità organizzata. Sulle reazioni, io non vorrei adesso che un cartello messo da una persona che ha evidentemente questo atteggiamento, che lo stesso sindaco leghista di Brembate di Sopra ha condannato e che io condanno, questo che ha scritto mi pare occhio per occhio, dente per dente, diventi poi il simbolo di tutta quella comunità. La comunità di Brembate, della Bergamasca, del nord, è una comunità operosa, è una comunità accogliente. La provincia che ha il maggior numero di cittadini extracomunitari è la provincia di Treviso, regolari, e c'è un sistema di accoglienza e di integrazione nel nord che è un modello di integrazione. Poi ovviamente ci sono i casi singoli, ma sono casi singoli e casi personali, assolutamente. Sentiamo rapidissimamente qualche telefonata. Abbiamo Yang che ci chiama da Treviso, se pronuncio bene il nome. Sì, Yang. Nazionalità? Signor Ministro, è italiano ma originario del Senegal. Sì, no, signor Ministro, abbiamo le carette sul mare, però facciamo lo stesso venire dentro gli immigrati clandestini, perché lei ci mi fa questi 2 anni dei flussi, visto che proprio la carenza di lavoro che c'è adesso, oppure di stagionali che dopo la stagione, sapendo proprio i problemi che sono nei loro paesi, non ritornano, abbiamo sempre il problema di avere gli immigrati in giro a non fare niente. E poi un'altra cosa, lei mi dice, come si permette un paese civile come l'Italia, nelle città grosse, avere proprio tutta una via in negozi solo di immigrati? Quello è ghettizzazione, quello non aiuta proprio l'integrazione. E io lo vedo perché dal mio lavoro io faccio il camionista, giro l'Italia, vedo proprio dei ghetti anche nelle abitazioni, nei posti di lavoro, quello non aiuta. E poi mi dice, lascia dire un'altra cosa, mi scuso. Poi per fermare l'immigrazione non serve anche battere mani ai dittatori. Per fermare l'immigrazione bisogna fare un'altra politica proprio nei paesi di provenienza. D'accordo. Quindi le questioni sono in buona sostanza no alla ghettizzazione commerciale urbana, e la seconda è no, la prima che aveva detto è perché continuare con i flussi che rischiano altrimenti poi di alimentare anch'essi l'immigrazione. Rapidissimo, sentiamo ancora Biagio dalla provincia di Cuneo. Prego Biagio. Oh, buongiorno dottor Giannino, se mi concede 20 secondi, scusi per le interruzioni. Ecco, io ministro, buongiorno intanto e complimenti. Volevo semplicemente, non volevo imbarazzarla, però se lei onestamente si prendesse l'impegno oggi a dare la scorta, capisco che c'è la coperta che è corta, però lei capisce che c'è una persona come il dottor Gallipo di Reggio Calabria, che è stato eletto presidente della Confindustria calabrese. Biagio, però mi mette nei guai, perché così sembra quasi che la telefonata l'ho passata per la radio di Confindustria. No, però questo non lo sapevo. Però di pure, per carità, però ci tengo. Guardi, io già un po' che cerco di fare qualcosa, quale opportunità come oggi che c'è il ministro Manone che è molto sensibile a questo. Va bene. E io da siciliano dico che siccome appunto il dottor Gallipo sta affrontando la stessa situazione che sta affrontando la Confindustria siciliana, adottare lo stesso. chiara la domanda, però peccato che questa cosa forse se la capivo meglio prima, no, ma non dico di no, però forse su, evitiamo alla radio di Confindustria di chiedere al ministro direttamente una cosa di questo genere qua, perché sennò mettete in imbarazzo me. Ora facciamo le informazioni sulla circolazione stradale, poi la risposta al ministro sull'immigrazione ancora, e soprattutto due domande sulla politica. Direi che il ministro ha sentito, c'era questo cittadino camionista regolare in Italia che diceva troppi ghetti ancora nelle grandi città, e soprattutto su questa storia dei flussi, ma coi flussi non rischiamo poi chi viene con un flusso e poi si trova senza lavoro che poi resti diventando a propria volta immigrato clandestino e così via? No, i flussi sono fatti sulla base delle esigenze del mondo del lavoro naturalmente, e quindi servono a far venire manodopera qualificata, specializzata o anche semplice manodopera, ovviamente con un contratto regolare, contratto di lavoro. Noi negli ultimi tempi, vista però la crisi economica, abbiamo ridotto, quasi azzerato, anzi azzerato i nuovi ingressi. Adesso lo faremo probabilmente, ci stiamo studiando, limitatamente a colf e badanti. Perché è vero che in un periodo di crisi i primi poi a rimetterci sono i più deboli, e se sono i cittadini extracomunitari che perdono il lavoro è inutile far venire dall'esterno nuovi cittadini extracomunitari se ci sono quelli che sono qui e che hanno perso il lavoro, ed è esattamente quello la valutazione che noi stiamo facendo. Gli stagionali è un'altra cosa, gli stagionali vanno e vengono ed è un sistema che funziona bene grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria, quindi non crea particolari problemi. Sulle ghettizzazioni è vero, sono assolutamente d'accordo, in alcune grandi città ci sono, purtroppo si sono formati dei quartieri etnici con delle vie piene di negozi etnici, e d'altronde con la liberalizzazione delle licenze commerciali fatta dal governo Prodi non è più possibile neanche per il sindaco vietare questo, ma siccome rischia di diventare un problema di ordine pubblico, noi abbiamo messo nel pacchetto sicurezza la possibilità per i sindaci, attraverso le ordinanze, di regolare anche l'apertura di negozi, evitando la concentrazione di negozi di attività commerciali di un certo tipo, che poi portano anche rischi di concentrazione di attività criminose, quindi uno strumento che abbiamo introdotto noi che serve a rimediare a un aspetto, diciamo così, deteriore di un provvedimento giusto, quale è stata la liberalizzazione del commercio. Su Callipo, sul presidente di noi abbiamo veda lei, non mi metta in imbarazzo, no, anche no, lei. No, io voglio cogliere questa occasione davvero per ringraziare Confindustria, il mondo delle imprese in generale, con cui c'è un'eccellente collaborazione. Col presidente Marcegaglia abbiamo firmato un protocollo di legalità Ministero dell'Interno Confindustria, anche con Assolombarda, con l'Associazione Industriale di Napoli, della Sicilia, proprio per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata, protocolli che stanno funzionando molto bene e che soprattutto per l'Expo 2015 sono molto utili, sono strumenti essenziali, perché 4 occhi, 6 occhi vedono meglio di 2, quindi le forze dell'ordine, la magistratura, ma se tutto il mondo delle imprese si mette al fianco del fronte della legalità, e credo che davvero per la criminalità organizzata i tempi saranno sempre più difficili. Allora, andiamo alla politica in questi ultimi 5 minuti. Dichiarazione di onorevole Casini: se il Cavaliere Berlusconi pensa di governare con un voto in più, c'è da chiamare il 118. Mi sembra più un modo di parlare da leghista che non da democristiano moderato, quale Casini dice di essere. Io penso che sarebbe da 118 sovvertire il risultato elettorale, e cioè mandare al governo chi ha perso le elezioni e mandare all'opposizione chi le elezioni le ha vinte. È una regola semplice ma fondamentale della democrazia. Il popolo sovrano decide, la sovranità appartiene al popolo. Il popolo sovrano ha deciso che a governarlo dal 2008 fosse Silvio Berlusconi, e non credo che una qualsiasi operazione di palazzo o di altro tipo possa sovvertire questo chiarissimo volere del popolo. Da quando c'è questo nuovo sistema, la cosiddetta Seconda Repubblica, che peraltro Berlusconi ha contribuito in modo determinante a realizzare, si sceglie prima da chi essere governati e non dopo. Ecco, queste pulsioni di ritorno al passato io francamente le respingo. Dopodiché c'è un problema evidente e serio, perché se il governo martedì prossimo, il 14, non avrà la maggioranza, non può più stare in piedi, non può più governare, ma per noi è evidente che l'unica soluzione possibile è questa maggioranza ha fallito, non è stata in grado di governare, si ritorni al popolo sovrano che dica da chi vorrà essere governato nei prossimi 5 anni. E ha visto che, insomma, il, sia pur non troppo esplicitamente, ma se uno legge con un po' di attenzione politica il combinato disposto delle recenti dichiarazioni di Fini, di Casini e di Rutelli, l'appello sembra essere quello: Berlusconi, pensaci bene, perché noi in realtà non ci vogliamo andare alle urne, pensiamo a un prosieguo di legislatura almeno con un pezzo del centrodestra in coerenza al mandato elettorale, poi se ci vorrà stare la Lega o meno si vedrà, ma intanto il PDL forse gli converrebbe starci. Tu apri a questa prospettiva e a quel punto finiamo la legislatura. La Lega a questo discorso, per quanto possa dir lei da ministro, sentendo poi gli organi, Bossi eccetera eccetera, ma la Lega da questo punto di vista sarebbe interessata a una prospettiva di questo tipo? No, assolutamente no. Il valore supremo non è finire la legislatura, il valore supremo è avere un governo che governi, un governo stabile. Io non condivido le preoccupazioni di chi dice in questa situazione di crisi le elezioni sarebbero perdere tempo e aggravare la crisi. Aggravare la crisi e perdere tempo sarebbe è mantenere un governo debole che non riesce a fare, che ogni volta che va in Parlamento deve cercarsi i voti, le cui manovre sono stravolte da maggioranze variabili. Andare avanti così per 3 anni è un suicidio. La cosa migliore è rapidamente, si può fare in tempi molto rapidi appunto, tornare, se non c'è una maggioranza, tornare al voto e avere un governo con una solida, nuova e solida maggioranza. Quale governo? Mettiamo che il 14 il governo perda e che, come dice l'onorevole Bocchino, le opposizioni, nuova maggioranza, abbiano 317 voti. Bene, si forma un governo, si formerebbe un governo guidato da non so chi, con dentro non so chi, che viene sostenuto dai Fignani, ex PDL, da Casini, l'UDC, da Di Pietro e da Bersani. Un governo del genere, la prima manovra che porta in Parlamento, lacrime e sangue, tagli di qua e di là, va sotto subito, dura una settimana e dopodiché si tornerebbe per forza al voto. Allora tanto vale anticipare i tempi, in 60 giorni dallo scioglimento delle Camere si possono fare nuove elezioni e nel giro di 80 giorni dallo scioglimento delle Camere si può avere un nuovo governo. Secondo me, poi naturalmente certo, bisogna vedere cosa succede il 14, ma la conclusione del ministro Maroni è che se l'onorevole Casini reputa da 118 l'idea di una centrodestra avanti per un solo voto, non è quantomeno molto meno da 118 l'idea di una maggioranza ancora più variopinta ed eterogenea fatta con gli stessi numeri, quindi meglio il voto. A me tocca ringraziare il ministro Roberto Maroni per averci dato questa ora di risposte aperte sui temi delicati dell'ordine pubblico, della sicurezza e della politica. Lo ringrazio molto. Con gli appuntamenti, con gli ascoltatori, l'appuntamento è per domani. Linea al giornale radio.